Oggi si conclude quel mini ciclo dell'Antico Testamento in cui si parla di Salomone, questo grande re che effettivamente lasciò il segno nella storia di Israele, nel bene e purtroppo anche nel male, come leggiamo nel primo libro dei Re, capitolo 11 di questa volta, che sull'invecchiare è così. Quando era giovane chiedeva tutto a Dio: Signore, dammi la sapienza nel reggere il tuo regno. Diventando grande, diventando vecchio, uno si sente il Padre Eterno, fa tutto lui e allora adora altre divinità, si dà alla idolatria e alla apostasia dal suo Signore. Io vorrei soffermarmi un po' su questo per vedere quanto questo rischio ce l'abbiamo anche noi. Non per nulla il primo comandamento è: non avrai altro Dio all'infuori di me. Eppure molto, molto raramente la gente è consapevole di questo. Anzi, dice: no, no, c'è un comandamento che vivo, è il primo. Io non sono passato a nessun'altra religione. Eppure, quante volte noi mettiamo altro al posto di Dio? Guardate, se dovessimo fare un tema e fare un elenco, dovremmo mettere tantissime cose, per esempio tutte le ideologie di qualsiasi genere, di destra, di sinistra, di centro, tutte le ideologie di potenza sostituiscono l'uomo a Dio, con la sua idea, la sua ideologia. Tutto quanto riguarda il materialismo sostituisce la materia a Dio. Ma c'è soprattutto un tipo di tradimento di Dio sul quale siamo proprio pochissimo attenti, e quando mettiamo noi stessi al posto di Dio. Io sono abbastanza indaffarato nel cercare di fare catechesi alla gente, anche in tutte le maniere, con la predicazione, col cellulare, ma non capite che questo attore, che questo cantante, che questo filosofo non cita neanche una volta Dio, ma continua a citare l'uomo? Scorri quell'articolo lì che ho letto su Avvenire domenica scorsa, di un grande cantante che va per la maggiore, che ha ospitato sulla pagina del quotidiano dei Vescovi, e non nomina neanche una volta Dio, neanche una volta il paradiso, i santi, lo spirito, mai, ma cita sempre l'uomo, la sua intelligenza, la sua capacità, il suo pensiero. Questa è l'idolatria del giorno d'oggi. Io ho fatto solo qualche accenno, ma non posso dimenticare due che nessun prete io ho mai sentito che predica: lo yoga e il reiki. Queste sono idolatrie, perché si presentano all'inizio come qualcosa di attraente, come qualcosa che ti dà benessere. Lo yoga, ma no, ma io lo faccio come attività posturale, distensiva. E nessuno nega che all'inizio si presentano in questo modo, ma chi cammina nei vari gradi di queste filosofie e di queste mentalità orientali si accorge che a un certo punto è chiamato a confrontarsi con degli spiriti, è chiamato a pregarli con dei mantra, cioè delle preghiere ripetitive. E io ti dico: fratello, ma tu, questo mantra è una preghiera, chi preghi? Ah, ma non so, così, gli spiriti. Ah, non preghi Gesù, non preghi Dio. No, ma Dio è uno, è lo stesso per tutti, uno lo chiama in un modo, uno lo chiama nell'altro. Ecco che siamo proprio nel politeismo e nel tradimento del nostro Dio. E chiamano in causa gli spiriti. Il Reiki, nel suo livello più grande, il terzo livello, chiama in causa gli spiriti della montagna sacra. Veramente ci sarebbe da fermarsi a riflettere e dire: ma come puoi, cristiano, tu che hai incontrato Gesù Cristo, tu che hai incontrato questo uomo Dio che dà la sua vita per te sulla croce, tu che hai davanti il Creatore, dimentichi tutto questo per andare a cercare delle costruzioni fatte da uomini? Perché all'origine di queste filosofie ci sono sempre uomini. Non ci accorgiamo, anzi, quando io oso parlare così, sono attaccato. Perché mi dicono che lo yoga, il Reiki forse la capiscono, ma che lo yoga fa così bene all'umanità? Già, prega, prega. Chi? Io pregherò solo il mio Dio, il mio Creatore, il mio Salvatore e colui che nella Chiesa, lo Spirito Santo, mi dà i sacramenti.